Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Se certe cose le dicessero solo i giornalisti, e voi sapete che chi vi parla le dice e le scrive, sarebbero, e forse sono, accusati di catastrofismo, di vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto e mai mezzo pieno, di essere ingrati e via con il corollario delle accuse, la peggiore delle quali è di essere razzista. Fortuna che ogni tanto, in soccorso dei giornalisti che semplicemente e banalmente sanno fare il proprio mestiere, raccontando ciò che vedono, giungono uomini dello Stato. Il generale Adelmo Lusi, comandante della Legione dei Carabinieri in Calabria, ha rievocato poche ore fa niente popò di meno che il nome di Martin Luther King, il leader della rivolta non violenta contro il razzismo in America, e il suo celebre discorso del 1963, «Ho un sogno, I have a dream». Anch'io in piccolo e senza voler fare un confronto che sarebbe irriguardoso, ha detto il generale Lusi, ho un sogno. Ho sognato che le associazioni di categoria istituiscono un fondo di solidarietà in favore di coloro che sono stati vittime di usura ed estorsione e per questo hanno subito danni. Ho sognato che gli imprenditori calabresi adottino le stesse decisioni dei loro colleghi siciliani, che prevedono anche l'espulsione di chi non denuncia il racket e riceve aiuti dalla criminalità. Ho sognato che diventi realtà la cosiddetta white list e che alle imprese virtuose venga assegnato un ranking di legalità. Se si è avverato il sogno di King, che nel 63 sembrava irrealizzabile, perché non può avverarsi il mio, che è molto meno pretenzioso? Lusi ha rivolto un saluto ai sindaci di Rosarno e Monasterace, Elisabetta Tripodi e Maria Carmela Lanzetta, presenti alla cerimonia per il 198esimo anniversario della fondazione dell'Arma, per il coraggio con il quale assolvono al loro impegno in un contesto difficile. E se certi sogni li facessimo partire o ripartire proprio dalle donne, spesso molto più coraggiose e meno propense alla mediazione degli uomini? Buona vita e a domani.